Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'igiene delle mani è una pratica fondamentale per prevenire la trasmissione dell'infezione da coronavirus, ma per garantire la massima protezione è importante anche mantenere integro il derma, prevenendo quindi screpolature, taglietti, fessurazioni. Ecco perché l'American Coat Dermatitis Society, in uno studio pubblicato sulla rivista americana di dermatologia, ha stilato una serie di raccomandazioni a riguardo. A Obiettivo Salute le commentiamo con la professoressa Elisabetta Fulgione della Clinica Dermatologica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e consigliere nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica. Buongiorno a tutti. Allora, le raccomandazioni pubblicate sul JAD partono da un'osservazione molto semplice. Dall'inizio della pandemia, circa il 66% degli operatori sanitari lavano le mani almeno 10 volte al giorno e poco meno le persone che non appartengono a questa categoria. Però di questi, solo un terzo applica le creme idratanti dopo la detersione. Inoltre aggiungiamo che l'applicazione quotidiana dei disinfettanti non a risciacquo aumenta molto la probabilità di comparsa appunto di queste dermatiti irritative, ma anche delle dermatiti allergiche a contatto, quindi una vera e propria sensibilizzazione verso alcune sostanze. Tutte queste pratiche insieme possono causare una perdita dei lipidi superficiali della pelle, alterare il pH, quindi il mantello acido della nostra pelle, e creare ovviamente delle problematiche. Professoressa Fulgione, allora quali sono i consigli della società scientifica per evitare di danneggiare la nostra barriera cutanea? I consigli della società americana chiaramente sono condivisi anche da quelli i dermatologi europei, sono innanzitutto lavarsi le mani con l'acqua tiepida per almeno 20 secondi, evitando invece l'acqua calda e l'acqua molto fredda, cercando di utilizzare dei detergenti, ancor meglio delle creme, degli oli, con una ridotta presenza di tensi attivi, di profumi, di conservanti e di coloranti. Insomma, bisognerebbe invece evitare quei detergenti con gli antibatterici, che non sono, diciamo, utili per una corretta igiene delle mani, ma che possono rappresentare una sostanza irritante chimica in più, tipo quelli con la clorexidina, col triclosan. Inoltre bisogna sempre ricordare di asciugare molto bene le mani, tamponando e non sfregando, e di applicare dopo ogni detersione un unguento, una crema idratante dove la componente lipidica grassa è maggiore, proprio per ripristinare il film idrolipidico. Sono molto utili ad esempio le creme con le cere d'api, l'urea, il burro di karité, le ceramidi, e in particolare devono fare attenzione tutti coloro che soffrono di malattie della pelle sottostanti, tipo la dermatite atopica, la psoriasi o di una pelle particolarmente reattiva. Chiaramente chi soffre di dermatite, nonostante le precauzioni, si ritrova comunque con le mani danneggiate, può in più applicare una crema idratante di notte, seguita quindi dai guanti di cotone o da guanti di plastica molto larghi, quelli trasparenti, per creare una sorta di occlusione e far penetrare meglio la crema idratante. Grazie alla professoressa Fulgione, per oggi è tutto e vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 6 per iniziare insieme una nuova giornata.